tenebriarsi della noia, che fermo se non piace il governo, vabbè, da secondo me. Ma se trova il dubbio. Io, guarda, se c'è una cosa, io se c'è una cosa che non supposto, brutto da sempre, però, no, non mi piace bisticciare, sì, vabbè, ti alteri, perché è anche giusto farti bassi della cosa tua, per una cosa che non ti piace, che non ha da avere, è normale, chiarsi la volta, eccetera. Però non ti fa casino, dai, lo butto ti fa male, può prendere da mezzo un'altra persona che è tolta la fine. L'hai fatto solo un piacere a chi si fa chissà e basta, quindi no. Poi, ripeto, io adesso va bene così, bisogna vedere di cosa si tratta la situazione che ti si presenta. Ma se uno può lascia perdere, io so che rubare di cambio di provocazione e cose, cioè, fa dei biglietti nani, vaffanculo. Tanto se sei ignorante, ignorante rimani. Non è che. Non mi interessa, anche se molte volte ti provo a una cosa, io cerco di tenere sempre calma, ti inviti a ragionare, no la fa benzina il fuoco della serie, già lo sai come si risponde, se no, e ne nasce poi purtroppo una cosa tragica, brutta, e non va bene. Infatti, è una volta che ci bisogna per cazzate, lasciamo perdere. Lasciamo perdere lui, per carità. Sì, vabbè, tutto la sua con la voce, ma poi è un casino, capito? Un casino. Ma io mi ho mandato un messaggio su WhatsApp. A chi? Una persona. Ah, persona a me? No. Gappa. Ui. Mi aspetta che le rispondo. Ah, ecco, sono ritornato. È così. Cosa si può fare? Mamma mia. E bisogna andare d'accordo, bisogna andare. Ma diventa cazzo sempre a farrarsi. No, tu guarda, secondo me non serve a nulla. Guarda, io ti posso assicurare. È sbagliato. Poi ti ripeto, bisogna vedere cosa è successo. Ma infatti, è vero che è successo. Papà. Però torno indietro, quando si vuole la capiti, bisogna la capiti. Beh, la capiti sì. Ti ha pagato. Stavo guardando la Sadiki, c'è che mi ha dondù. Ma mi che è robusta un bel mi sa antenna, la grazioli. Sì, no, guarda, tutto quello che vuoi, però è molto robusta, tranquillo. Ma tutti i bulloni in acciaio, va. E va anche molto bene, dai, e non ti li puoi agappiare, canoppiare, ma è così. Non so, bella robusta, c'è radiale enorme. Ma io non so che antenna va giù, la ringo va giù, nella LEM. Sì, no, ma guarda, allora se è messa bene, secondo me qualsiasi antenna, interessante che sia boccia, che sia boccia appunto, secondo me andano quasi tutti. Poi se vai a cercare particolari, giustamente ci vuole l'antenna. Se tu vuoi arrivare dappertutto bene, ci vuole l'antenna. Non per un cazzo da fare, non per apparato, non per microfono di tegna, ci vuole l'antenna. Sì, quello è vero. Ci vuole l'antenna per la cubiciuria. Ci vuole. Cioè, ma andando, sì. L'unica antenna da balcone che io ho provato che va bene, la boomerang, quella grande. L'ho provato due altri e su così. Poi adesso magari riprenderanno e con andare nel tempo faranno sempre cose migliori, però siamo sempre in ghiri, se noi andiamo in alto a una base, chi di candaziani e di più erano sempre rimanto qua, che secondo me nani venduto e la piani tutti. C'è un'antenna, una grande antenna, robusta, bella, eccetera. Poi a molta gente non piace perché dice vabbè, ognuno poi, come gli apparati, no? C'è chi gli piace una cosa, c'è chi gli piace l'altra, e niente. Secondo me l'apparato quando funziona bene, va bene e basta. E no, con cazzo va, va. Poi a dipendere da, cioè è normale che da macca a macca, no? Uno dice uno preferisce fa di ok V2I con o Iaesu, però oppure o Intec o altro, no? O altro di quella tipologia lì a livello CB, no? E se lui funziona bene, punto e basta, lo vecchioia. Però se tu riesci a azzeccarlo bene con l'antenna, non ti preoccupare che vai alla grande, perché anche se non arrivi col segnale, arrivi con la radio. Appa, e beh, già un grido via, ma in forza, cioè, deve andare bene, e io ho messo questa, ho messo perché ce l'avevo da molti anni dentro in busta, ma cazzo si era, ero sempre incapurato, mi sono arrabbiato perché era minimo era 10-15 anni dentro la busta, quando sono arrivato a abitare con la mia compagna, ho detto che me la posso pulire, me l'ho messa, io ho messo l'antenna sul tetto, prima ce l'avevo nel balcone io, quando abitavo la Teodolce. Sì, ma come sa, io ti sento bene, io ti sento bene, io parlo di me, che io no, che ti sento bene alla grande, non c'è problema. Sono entro Sassari pure. Figurati. Zona Corso Vicco. Cosa onde è? Corso Vicco è. Cos'è che io metto il vino, il gioco? Questa è la stazione. Sì. Ma onde ve ne capelli in Givi? No, allora. Vabbè, la zona è quella, va. Più che altro, sai onde è più vicino? Avrei presente Bruno, che sono della pizzeria? No, è che non so pure i figli, cioè, ma io so pure si può dire che a Sonia lì, però a livello di via qua non ne so, nulla proprio. Ah, è cappa. Vabbè, Piazza Colonna Mariana, che c'è la zona? Sì, chi mi sopra? Cappa, ma io sono con 30 un posto, cioè non è che sono tanto poco, cioè sono la nostra casa risulta più infossata, compresa. Ma dico, più o meno siamo capiti di chissà zona in Givi, dai. Cappa. No, perché io come via, a me quando mi voci mi dicono, mi soccupiamo in via, cazzo soccupiamo in via, dimmi vicino di è, mi devi dire onde io arrivo, no? Ma se mi dirà via, pure una posizione, però se tu mi dici via, non li so uno io. E mi dice, ma non li so, non mi dici, non mi dici, tu mi dici onde sì, a me che mi dici, so come dire via di fine, so come dire a Bagai, so come dire via Sassi, poi basta di via compreso, però se tu mi dici in via, cazzo in via, non è se faccio lo registro in capo di Divino. Io purtroppo l'ho dovuto imparare tutti, se dovevi consegnarsi, no ciccia. No, insomma è diverso, non mi hai preso, però io a livello di vie, non lo so, se tu mi dici per dire, bisogna ancora bene, ecco ci ha compreso più o meno in quei torni lì, capito, però dov'è, no, dov'è proprio non lo so, però più o meno ho capito da quelle parti lì. Cappa, da quelle parti lì, non è che dico proprio un disocco, ma comunque in questa zona. Cappa, avanti lui. Ehi, vabbè, tu non fossi, guarda, non so voi allora, se non fossi, vabbè, sono in alto, ma purtroppo a me mi coprono i palazzi. Lui è peggio di me, Luca. A vero, perché non sei tu lui? Io, casa in Canada. A Romonte. Vizzino di? Ragazza da lei, da ieri c'è volato lì, da. Ah, forse ho capito, vabbè, è lì sopra, dai, da quella parte lì. Siamo a tutto prima, che sta in Canada, no, poi giù da nascosta, non c'è problema. No, e cosa entra e cosa, cioè mica uno sa di buono un problema, quindi se stiamo parlando così a titolo di coso. No, niente, perché prima stavo dicendo, io a livello di vie di cose, non so, più o meno, uno dice, mi sono vicino a Inghivi, ecco, comprendo così non di è, ma tu mi hai detto Inghivi, via Grazia, più o meno, so con die, dopo c'è la chiesa, più o meno, lo so dove, dai. Sì, infatti, sì. E se pensavo che siamo l'attivaggio di fronte qua, ci vuoi aprire. Troppo, mi copro. Comunque là, io ecco un po' chi va, sono 6 watt dalla radio. Sì, ma io ti sento bene, tranquillo, anche il segnale è buono. 9 problemi. Se sono 6 watt, viva di tavoglia. No, sono sempre intesi, lui stava a Conforama, a Gianluca, ci sono intesi. Infatti rimane l'agente Emiliano e verrà giudito. No, io non voglio entrare, aspetta, è che c'ho sempre da fare, gatta, poi da gremia io lavoro sempre, mi faccio sempre pignati, mi domandano i libiati, mi dico. E a te puso Gazzello, infatti rimane Zemitesi con Emiliano, il telefono di Lucia, l'ha detto, cazzo non ha giudetto, però, l'ha detto, guarda, domani oggi sai. Senti, domani si morlo prima, dai, un'ora, giusto, anche per far trattare chi si apparecchia a lui, no cazzo vedrai, come te che non hai, no? Sì, pure un tuo di ragazzesi, ho capito, come te che non hai, cioè, o le tratti o non le tratti. Io sicuramente l'ho sempre trattati prima, anni addietro, poi col tempo, quando non hai tempo, non hai tempo e basta. Però vedi, un bel subito da un bel che non entrano a Matteo Emiliano. Dopo di tempo non entra. Cosa ne sta spesso invece? Eugenio. Ma c'è un simino, vabbè, fanculo. Cazzo, ma dimmi tu. Ce l'avevo di guarire, va, sennò. Io peso 20 kg oggi, va, fare i medezzini. No, devi mangiare bene, copriti. Magari se ce l'hai un bicchiere d'acqua vite buona, quella lì che ti riscalda, naturale. Però devi di là fuori dalla corrente, perché sennò è un casino, purtroppo un po' di voci e piazzi, piglia una boccata d'aria fresca e invece è più danno che altro. Bisogna ricoprirsi e si carica a passare un paio di lì e passa. Magari usare anche cose naturali, capito? Tipo magari miele, quella roba lì, che già ti guardi. Però un bicchierino non guasta, non dico un'imbriaghiera, ma un bicchierino non guasta. No, dico c'è un ibico, no, non lo so, per la gola. Vabbè, mi sono preso. Sembra che per quanto riguarda la tosse già c'ho di cosa c'ho di meno, di tossire. No, perché c'ho mercoledì c'ho il dentista, se non c'è appunto in chibi, cioè 2 mesi ho aspettato, capito? Devo fare un altro intervento, se non c'è appunto in chibi è un casino. Speriamo di guarire entro mercoledì, infatti me ne sto a riguardo adesso. Per forza, che chi va bene, la prima cosa che ti dice subito tampone, pipa, dopo, ma diventa tutto un casino, diventa, per forza, diventa riposo, ripiglia di me e andi tranquillo. Sì, però me l'ho preso la febbre. E io sono leggero, là. Leggerino, golfino, cioè l'ho mai detto, golfino di quelli a V, leggeri, con il cappottino. Subito un attimino, ma un attimo mi, quasi che ci mi ha fulminato. Subito mi ha crepato, subito, volevo di su, all'istante. Infatti la vittima mi ha detto, ma cosa fai? Boh, tipo col strano, non la più gana, Ero pure di musica, tu, con computer di Mirko. Stavo facendo praticamente karaoke io, là. Davvero? Ma poi in realtà non ti ho invitato proprio motivo lì, dai. Un casino. Sai cos'è il discorso? Io glielo faccio, glielo faccio perché è un amico, però non ne voglio ubriare i capelli, cioè nel senso che col capo di fatti me se lo può fare, però che sì, ma anche tu lo paga e se lo vado di fare, che non ha giugano, no, non è voglia tu di stare lì, voglio stare tranquillo, sereno, sto seduto, se ho voglia qualche canzone me la faccio, se no con la birretta così, con gli amici, due chiacchiere e via. Non è voglia stare lì a combattere con la gente, poni mi ghisa, no, poi ghisa, poni musica, poni sassarismo, poni. Ci avete dei venici di capo, fatevelo voi, buce per maloso, ma se mi siete assieme tutti in pari, decidete, vi ho fatto musica o cantate? Un po' italiano, un po' sassarismo, un po' ghisa, ma no, allora, non si batte così. Un karaoke deve decidere tu cosa fare, no loro, nessuno deve dirti cosa devi fare, come regola. Ci chiama e cose, ti pagano, devi decidere tu, poi ti vuole un quaderno, annoti, il brano che tu vuoi, quello che tu vuoi, quando è il tuo turno canti. Ma così no, non esce un casino, non esce. Ma infatti, chi sto? Cioè, non è che... No, per una piugana, ero... quando non ti senti bene, poi ti ne passa la gana di due. Poi ci siamo andati via, tra una cosa e l'altra, no, l'una e mezzo. Poi siamo arrivati a casa di Maria, aveva un freddo, e a casa sono andati nella stufa, c'era un freddo cane. C'era freddo. Poi non stavo manco bene. E diciamo che non ho manco riposato bene ieri notte. Un po' stasera, un po' stamattina anche, ma niente di. Cioè, in teoria mi devo risvegliare alle 4 stanotte, ma non lo posso. Diciamo che dormire tutta la notte e prendermi lo sciroppo. E volevo mandare via questa... Ma di quello non mi interessa niente. Volevo mandare via questa tosse. Questa tosse a colpi. Perché lì devi essere pulito. Perché non è che poi ti puoi pulire a tossino, te lo puoi permettere. Scappa, pure io sto prendendo lo sciroppo. Dicevo, ma ogni quante ore bisogna prenderlo? Oh, no, ho fatto ogni 8 ore. Io sto prendendo, aspetta, cosa questo qua? Il visto vuole micidiale, il secchio ho preso. Il secchio, voi ci vi ficchio. Ed è buono anche, quel denso. Ogni 8 ore, aspetta un attimino. Mettendo il televisore, ecco qua. Spegniamo le luci, ma poi diventa un burro. Un riportatore all'evento, ricordami il tuo nome. Non c'è più. Cappa, ci sei? Porto Torres. E poi si è spostato. Come di vento c'è? Non riprendi che sto parlando al telefono. Tanto, come di vento c'è? Già lo so, già, a me sono gabbizzato. Cappa, sto parlando al telefono, Antonello, Ehi, Antonello, come stavo un nome? Sì, ho già sentito. Si sente dalla gola, no? Un po' si sente che sono rauco. Già si sente. Io sono conveniente che c'è un bronchenolo. Tu ti vesti leggero, io sto leggerissimo. Leggero, io vabbè, non ho un po', Ne parlavo con Maria, aspetta Maria, sei quello che prima spesso mi veniva mal di gola. È vero. Ma culizzo, è venuto mal di gola. Soffrivo un bel. No, ultimamente non stavo soffrendo, la verità. Vabbè. Sai cosa? Uno stai al caldo, tipo ieri ho fatto la doccia calda, vesti cambiato, uscito leggero, poi siamo fulminato. Cappa, ma non riusciamo a buscare un karaoke completo da installare nel computer. Anto, ma cosa te ne fai? Se tu te lo poni completo. Se vuoi te lo posso punire, ma non è a licenza, il Van Basco, capito? Cioè, ma se non fai male, se non fai serate, che te lo batti fa? Ha punito un karaoke, come ti si dice, a pagamento. Se fai serate, tanto quanto, te lo paghi dalle serate. Ma non ti puoi punire un karaoke con la licenza. Ti scarichi karaoke 5, te lo devi studiare, o Van Basco. Poi, se ti servono male, te le do io, ne ho. Cappa, a me mi serve un karaoke, che l'ho detto che non lo posso fare. Cioè, se avrei avuto il karaoke qualche serata me l'avrei fatta. Non so che non te la puoi fare. Ti devo organizzare quelle serate, ma già ci sono comunque in vendita. Chiedo a Costantino dove l'ha preso. Ti prendi il suo, ti prendi il karaoke 5, me ne so tanti. Fate un giro su internet. E te lo acquisti, capito? Una volta che poi tu ti fai l'acquisto, ti scarichi il programma, tipo il karaoke, e poi gli paghi la licenza, ti metti la licenza, lo puoi usare, tranquillamente. Dura un anno, mi sa che è 30 euro all'anno. No, ma la CIA ci paga 32 euro per fare il karaoke. Sì, lascia perdere la CIA, non sto parlando di quello. Ma per quanto riguarda la licenza del karaoke, perché se tu metti quello, karaoke 5, faccio un esempio, no? Ti esce che non lo puoi usare al pubblico, lo puoi dare in casa e boh. Guarda, tutti così insomma. Infatti, chi so? Poi quello fa vedere. Se paghi la CIA e fa la serata, sai più. Anche così potresti fare anche tu. Oh, come ti sto dicendo io. Se non c'è la licenza. Scappa. Poi adesso vediamo con Sara di comprare un computer innanzitutto come si deve, perché Guido non mi pare assai, e poi qualche serata in karaoke me lo scarico, qualche serata in karaoke me la voglio fare. Anche tu io non fatti, fa. Di comprare praticamente il, lo sapevi benissimo il problema, no? Che c'ha solo il VGA, ti compra l'adattatore HDMI e lo puoi usare. Tanto faceva comprare un PC nuovo, oppure ti eserciti con quello piano piano. Una volta che sei pratico, allora lo puoi, te ne compri un altro più potente. Se vuoi più potente, allora ti ho ragione. Ma quello va bene per fare karaoke, a Vudia. Quindi hai visto i bucchi. No, non mi piace, troppi ronzie c'ha quel cazzo di computer. Nelle casse, non sai che io sono delicato, non mi piace. Troppi ronzie. Ma non dipende dal computer fare ronzie, dipende anche dai capi. No, putti dinni tu. Ti ho provato l'altro, quello più piccolo non fa niente. Mi pare strano. Ma te lo so come intendi? Poi siamo andati, io ho provato quel PC, l'ho attaccato al monitor, non si non ne fa. Non lo so. Non lo so, c'è un PC dopo provvedimi altro. Ma fai i soldi, lo vendi, Questo l'ho dato io. E alla fine ho fatto un prezzo d'amico anche. Però quello l'ho già venduto. Solo che poi quello là. L'ho dato a te, se non l'avrei dato questo mio amico, se l'ha già comprato. Capito? No, io adesso me ne voglio prendere uno migliore, perché questo non mi piace molto. Lo voglio prendere uno più, un po' più forte e mi metto il karaoke. Vabbè, comunque te lo puoi sempre vendere. Se lo vuoi vendere nei gruppi, se lo vendi subito, gente che lo usa per studiare, per scuola, capito? Sì, te lo so. No, se vuoi ti metto Windows 10, tra l'altro non ce ne sono problemi, me lo porto e te lo metto Windows 10. Ma il Windows 7 non va. Però saranno questi ronzini, quello è un bel strano. Ma dovuti dal jack audio del computer? Sì, ho alimentato, no che c'è già Windows 10, quasi dicendo. Ma te l'hai installato tu? Non l'hai fatto. No, è Windows 7, era, non Windows 10. No, che hai messo il 10, cosa 7? Ma ti l'ha già regato e me l'hai fatto, non ti dà a mettere delle cose? Non me l'ha messo, subito in di goip allora. Non mi ricordo l'altro, stavo messo 10. Sono sincero, non me ne ricordo. Ma un bel goip. Se sono andato una mattina, ti ho lasciato, sono preparato, non te la metti più. No, non me ne ricordo, giuro. Ma io sì. Sì, ma giù la sai, tu. Anche se è passato un bel po' di tempo, ma cazzo, non sono pintiato, già me ne ricordo le cose. Cazzo. Ma mi metti tu, io non so comprare queste cose, secondo te. Non ci penso neanche a toccare un computer. Vabbè, tu, quando decidi di venderlo, ci metti nei gruppi e lo vedi tranquillamente. Lo vedi, ma che lo cercano. C'è chi lo cerca magari per navigare, mica lo usa solo per karaoke. Ci si usa per tutto, anche per navigare lo puoi usare. Caffa. Già mi bisogno che... Come cavolo ce li ho messi? Niente di giave, non mi ammetto più niente della mia borsa, cabaretto, faccio, questo garascio, facciamo così. Per forza, così devi fare, facciamo così. Comunque ho avuto molte volte dal capo, lo fa anche da Mirko, Con zio, vabbè lui c'ha un impianto così andante, proprio di sì, è tanto malato. Il mixino è carino, è un bello, non è come il tuo, però questo qua è digitale. Per quanto riguarda le casse, sono così, però già va, dai, già ti diverti comunque. E che cavolo impianto va? Non casse da niente, già, adesso non mi ricordo la marca della cosa, dai un giorno sali, tu. E le guardiamo, vuoi vedere? Così vedi il tuo amore là. Adesso mi video, fai entrare la tua azienda. Ma poi, ci sei? Beh. Niente. capo, sempre freddo, perché si alza la ventola ogni tanto. E non raffredda subito. Boh, un attimo, tanto che sto, perché quando una cosa arriva. Cappa. Eccomi qua, via, ecco un po'. Casino. Ti dovresti anche organizzare un hard disk grosso, vabbè, già c'è la pennina da 2000 terabyte, a voi avete tante roba in chili. Aspetta che ti telefono un attimo, Lu. Sì.